Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Fu in quell'autunno che comparve il circo. Ario e Berto un mattino videro passare per le rive i carrozzoni traballanti, azzurri, gialli, rossi. Li raggiunsero col fiato in gola e li seguirono, interrogando le donne e i fanciulli che si sporgevano dalle piccole finestre, sino allo spiazzo ove si accamparono, nel tratto erboso fra la stazione transalpina e il mare. Né l'uno né l'altro quel giorno tornò più al Mandracchio. Stettero a guardare come veniva alzata la tenda e cercavano febbrilmente di stringere amicizia coi ragazzi stallieri. Uno di essi, che preparava in un secchio grossi pezzi di carne sanguinolenta, li condusse a vedere, all'altro capo dell'accampamento, il pasto delle belve. L'indomani era di domenica. Si precipitarono appena liberi verso il campo. Udivano, mentre correvano scalzi sulla polvere delle rive, marce e canzoni da altoparlanti e, nelle pause, una voce di uomo stentorea. Svoltato l'angolo della stazione, sfuggì loro un grido. Si ergeva lì dinanzi una specie di portale di assi e di drappi sventolanti e al di là tanti padiglioni multicolori. Si affrettarono, ma all'entrata una voce li fermò: «Il biglietto!» Una figura in divisa azzurra e rossa sbarrava il passo, allargando le braccia. Si voltarono, accesi di vergogna, e tornarono indietro. Nascosti dietro una baracca, frugarono, saettando sguardi qua e là in tutte le tasche. Avevano pochi centesimi, ma non si arresero. Tornare al Mandracchio per prendere i soldi non volevano. Chissà che non li trattenessero per farli lavorare e non riuscirebbero più a scappar via. Mentre gli altoparlanti diffondevano canzoni e marce e quella voce stentorea invitava a entrare, Ario e Berto guardavano da ogni parte, con le sopracciglia corrugate, se apparisse un conoscente. L'impazienza metteva un formicolio nelle gambe e a tratti, quando la musica prorompeva più impetuosa, un prurito sotto i piedi. A chi venne l'idea? A entrambi, forse, nello stesso istante. Corsero alla riva e si calarono giù per la gettata sulle rocce sottostanti. Là, dove nessuno poteva scorgerli, si sfilarono di dosso le magliette che nascosero, arrotolate tra i massi. Poi, con la stessa furia, presero a spettinarsi e, arrampicatisi a raccogliere terra e polvere sul ciglione lì sopra, si sporcarono in viso, sul petto e sulle gambe. Quando riapparvero sullo spiazzo, seminudi e sudici, coi calzoni impolverati e pencolanti, parevano due vagabondi. E miserabili, costretti a mendicare, si sentivano davvero. Cominciarono a tendere la mano con le facce smunte e i grandi occhi lenti dei ragazzi affamati. A un tratto, Berto scomparve. Tornò poco dopo zoppicando. Aveva un ginocchio fasciato. La benda era un fazzoletto con qualche macchia rosso scura di sangue asciutto. Ricominciarono a tendere la mano e incavavano il ventre per mostrarsi denutriti. Erano poveri e soli al mondo. Chi avrebbe dato loro un po' di cibo? Forse i marinai della lanterna, che distribuivano un po' di rancio ai mendicanti. E la notte? All'aperto sopra qualche panca delle rive o sui gradini della stazione o in una barca, sempre così, come cani. Pure si sentivano stranamente felici, quasi con commozione, felici e liberi. Bastava si facesse loro la carità. I passanti cominciavano a voltarsi e a soffermarsi, aprendo il portamonete. A questo punto Ario e Berto si divisero. L'uno restò davanti al circo. L'altro risalì verso l'angolo della stazione. Solo, Ario sentì un altro brivido di commozione e di felicità. Si guardava intorno estraniato, estatico, quasi si trovasse lì per la prima volta. C'era in lui, dai capelli ai piedi, un lieve e blando formicolio che gli infondeva un benessere caldo, come in dormiveglia. e c'era un impeto lucido d'entusiasmo che lo sconvolgeva tutto. Si sentiva infiammato con gli occhi umidi. E i padiglioni e tutti quei colori e i drappi nell'aria. Si trovava a Ceylon o a Sumatra solo. Era fuggito a bordo di un piroscafo da carico nascosto in un carbonile e sui pontoni non sapevano più nulla di lui. Se avessero potuto vederlo la mamma e Lidia e Berto, che era pure scappato, ma chissà in quali altri paesi, se avessero saputo che egli era ormai là, in Oriente. Lo corse, sino quasi al pianto, un altro brivido freddo e caldo di felicità. Qualcosa, alcune voci, lo riscosse. Rinvenne sbattendo le palpebre. Tre ragazzette pallide, che gli passavano accanto, accompagnate dal padre, si voltavano a guardarlo con occhi enormi. L'uomo non poté procedere. Lo avevano afferrato alle mani, alla giacca, e lo trattenevano indicandogli Ario. Egli si accorse allora, mentre quel tepore e quel formicolio si attenuavano, d'essere stravolto con gli occhi colmi di lacrime. Le bambine gli vennero vicino e tutte e tre gli misero in mano qualche moneta. «Grazie, grazie», balbettò sentendosi di nuovo il ragazzo abbandonato che mendicava intorno alla lanterna. E gli parve di dover dire ancora qualcosa per ricambiare, per vederle contente. «È da ier l'altro che non mangio», gli uscì tutto d'un fiato in un impeto di gratitudine. Mentre quelle, trascinate dal padre, si allontanavano voltandosi in tratto a guardarlo, egli si sentì, con un nuovo brivido e con quel formicolio, stranamente lieto e soddisfatto di sé. Più tardi, appena ritrovato Berto, presi i biglietti e varcato l'ingresso, restava loro ancora qualche monetina. Si sorbirono di carretto in carretto alcuni coni di gelato. Oltre alle belve, alle scimmie, ai serpenti, ai cavalli, alle zebre e ad alcuni pagliacci che si esibivano in uno spiazzo, c'erano diversi padiglioni, con la donna ragno, il tiro fotografico, le gabbie volanti, il domatore di pulci, la pesca reale, l'autoscontro e altri giochi. Le stesse cose, in gran parte, che avevano veduto già altre volte al parco dei divertimenti. Mario e Berto correvano di padiglione in padiglione, di gioco in gioco, e poi tornavano a vedere tutto da capo, avidi e già eccitati al pensiero di entrare quella sera in un circo. Ebbero la prima delusione quando seppero che per assistere allo spettacolo bisognava pagare di nuovo. Si doveva prendere un altro biglietto alla cassa davanti alla tenda. Stentavano a crederci. Si sentivano imbrogliati. Tanto più che ormai non avevano un centesimo. Corsero allo sportello per informarsi. E rimasero storditi, senza parole. Non solo ci volevano i biglietti, ma gli ultimi erano già venduti. Il circo, quella sera, era al completo. Pure non si arresero. «Vieni!» gridò Berto. Sperava di farsi aiutare dai ragazzi stallieri. Forse un buco da starci magari in piedi c'era ancora. Bastava cercarlo, trovarlo. Si imbatterono nel ragazzo che il giorno innanzi li aveva condotti ad assistere al pasto delle belve e lo supplicarono. Quello poggiò a terra un enorme spazzolone che aveva in mano e guardò via, mordendosi il labbro. «Ecco», pensò Ario, «sta riflettendo. Qualche modo di entrare di straforo ci deve essere». «E i soldi?» domandò in quella il ragazzo, riportando bruscamente gli occhi, quasi con insolenza, su loro due. «Sì, li abbiamo», fece Ario, oscurandosi, «ma non qui, a casa. Ora corriamo a prenderli». Lo sguardo del ragazzo scrutò rapido, prima l'uno e poi l'altro, soffermandosi sui loro corpi sudici e scalzi e su quei calzoni pencolanti. Infine, rialzò lo spazzolone poggiandolo sulla spalla e si mosse guardando di nuovo via. «No, è inutile», disse. «Tanto posti non ce ne sono più». E li lasciò. Ario e Berto si guardarono l'un l'altro e si videro con dispetto come erano apparsi al ragazzo. Sudati e scompigliati, oltre che sudici, erano ancora più miserandi di quando avevano chiesto la carità. Due vagabondi, Tuttavia, col crescere dell'irritazione, Sinte stardirono di venirne a capo. Tornarono alla carica con un altro dei ragazzi, più piccolo. Lo pregarono di insegnar loro il modo di introdursi nel circo durante lo spettacolo. «Ci sarà un pertugio», insisteva Berto, «per sgusciar dentro, magari sollevando la tenda. Mostracelo e daremo i soldi a te». Il ragazzo affrettò il passo rannuvolandosi. Dovettero rincorrerlo. «No», disse infine, «lasciatemi! Attorno alla tenda stanno due guardiani. Se vi prendono, vi pestano». Stanchi, abbruttiti, si avviarono verso il mandracchio. Non parlavano. Procedevano adagio, trascinando i piedi nella polvere tiepida, e avevano sotto braccio, ancora arrotolate, le magliette che erano andate a riprendere tra i massi della gettata. Di tratto in tratto, sinché non ebbero passato l'angolo della stazione, l'uno o l'altro si voltava. Si sentivano imbrogliati. Quella specie di parco dei divertimenti che per entrarci si doveva pagare era nient'altro che un richiamo, allestito per invogliare la gente ad andare al circo. Così i proprietari, quelli dei carrozzoni, venivano a guadagnarci due volte. Pure ascoltavano alle proprie spalle, con un misto di attrazione e di dispetto, la musica degli altoparlanti sempre più lontana e quella voce che invitava a entrare, odiosa. Imboccando al molo delle canottiere, provarono un sollievo e respirarono con piacere l'aria densa e viva del mandracchio, quell'aria che di sera aveva un odore di legno, di catrame e di corde intrisi di mare, un odore fresco di barche e di ormeggi bagnati. Lì si sentivano in casa propria, nessuno poteva più ingannarli. Giunti davanti alla Virtus, stavano per lasciarsi quando udirono la voce di Lidia. Chiedeva se si andava quella sera al circo, tutti assieme. «No!» gridò Berto. «Perché no?» fece la fanciulla, che si era mossa verso di loro, soffermandosi sulla passerella. «Ti ho detto di no!» tornò a gridare Berto. «E poi è troppo tardi, ormai!» «Troppo tardi? Ma se comincia tra un'ora!» Ario spiegò che era troppo tardi per prendere i biglietti. «Ma li ho io i biglietti!» si mosse Lidia, facendo vedere qualcosa che aveva in mano. Aveva difatti tre biglietti rosa che portavano il nome del circo e sopra di traverso una parola stampigliata in violetto. «Omaggio!» Ario e Berto glieli tolsero di mano. Stentavano a credere. «Ma come li hai? Chi te li ha dati?» La fanciulla sollevò le spalle e rise. In cucina, mentre buttava giù la cena, Ario riudiva con impazienza, con gioia, la musica del circo che giungeva ora alta e ora lieve sin lì nel mandracchio. Era tutto animato, acceso e grato a Lidia, entusiasta di lei.